Ora è un ragionamento, si può essere d'accordo o non d'accordo, comunque è pare che in tutto il mondo soltanto con una limitazione degli assembramenti si riesce in qualche modo a tamponarlo, a tamponare la diffusione. Questo è un dato di fatto. Lui però nessuno ha detto e le carceri? E lì sono assembrati, non solo, non è un assembramento in carcere, è una persona sopra l'altra, è un mucchio selvaggio. E se soltanto una persona, una persona carcerata, si scopre che sia infetta dal virus, che cosa succede? Di queste cose non ne hanno pensato, perché il Ministero della Giustizia e il DAP, il Dipartimento che si occupa in specifico delle carceri, ha detto intanto vietati i colloqui, sono rimasti quelli telefonici, hanno vietato l'ingresso dei non quelli strettamente necessari, quindi volontari, insegnanti, c'era tutto bloccato, però i carcerati entrano in carcere continuamente, le persone vengono portate in carcere ogni giorno, ogni ora, il flusso è continuo, si esce per i permessi o semi libertà, molti dal carcere escono, fanno un giorno, due giorni fuori e poi rientrano. Tutto questo è stato bloccato, infatti sono stati bloccati i permessi e c'è anche una protesta da parte degli avvocati difensori, eccetera. In qualche caso è vietato pure il colloquio con gli avvocati difensori, sono state sospese le udienze, insomma c'è uno stop totale alla realtà. Però non si è deciso, non si è pensato che cosa fare se soltanto un detenuto dei 61.000 in questo paese risulta contagiato. Stante il sovraffollamento, chiaramente succederà un disastro. Pare che un caso sia stato trovato a Marassi in Liguria, a Genova, il carcere di Genova, uno dei più sovraffollati. E allora che cosa hanno fatto? La Protezione Civile, chiamata d'urgenza, ha messo appena fuori, dentro le mura del carcere, però fuori della costruzione dell'edificio, delle tende dove ci ha messo questa persona infetta, ci metteranno tutti quelli, però questa cosa qui è, a parte che non tutti i carceri hanno questo spazio, per esempio a Roma Rebibbia ci dà un po' di spazio, a Rebibbia Ceri no, perché non c'ha terreni o spazio. Ma allora una notizia che viene ieri pomeriggio dall'ANSA diceva che per esempio in Iran, che è definito come uno dei regimi più orrendi, tristi, terribili e dittatoriali, hanno mandato agli arresti domiciliari, cioè ai domiciliari, ben 54.000 persone detenute. 54.000 persone detenute sono andate immediatamente dall'oggi al domani dal carcere al proprio domicilio. In questo modo, questa è una cosa, ecco, senza dare, invece di dare giudizi sui regimi, ora io dico chiaramente, a me quel regime non mi è per niente simpatico, anzi lo detesto, mentre invece ritengo che il popolo persiano, l'Iran, metà dell'Iran sono persiani, è uno dei popoli più antichi, più civili, anzi forse il più civile che ha per quanto ha fatto nella sua storia, ed è l'unico che non si è fatto mai occupare pienamente, quindi ha una discendenza abbastanza autoctona. Ebbene, comunque il popolo persiano è uno dei più grandi popoli mai visti, le persone sono stupende, purtroppo il regime è quello che è, è venuto fuori da un disastro provocato dagli altri paesi, dagli altri grandi paesi, dagli grandi stati che circondano l'Iran, e quindi non piace. Però non essendo un regime che non piace, teocratico e comunque sì molto liberticida, e tuttavia ha fatto questo provvedimento. Perché le democrazie occidentali, parlamentari, questi che si ritengono il vertice del mondo in quanto a civiltà, non fanno una cosa analoga? We'll be right back. E allora, eccoci qua, 15:10, insomma, come vedete, allora, se c'è da tenere le dita incrociate, perché da sperare veramente non nell'intelligenza di chi dirige le carceri italiane, ma nella fortuna che non avvenga, altrimenti sarà veramente un massacro voluto, perché mandare le persone, a parte che, come abbiamo sempre detto, stante le leggi esistenti, in Italia, le leggi italiane, coloro che hanno da scontare meno di 18 mesi, cioè di un anno e mezzo, dovrebbero andare, invece sono circa 15.000 che stanno in questa condizione, ma non sono andati, questa legge è di 4 anni fa, sono bloccati perché non si capisce perché c'è un clima, e non bisogna dar fastidio a quei politici che dicono andiamo in carriera tutti e buttiamo la chiave, siccome è un paese dipendente veramente dai ciarlatani, i chiacchieroni, insomma, quindi le leggi, come abbiamo sempre detto da questa trasmissione, come dice sempre questa radio, come dicono le persone intelligenti, le leggi non servono pressoché a niente, a volte si riescono a ottenere pure, ci stanno pure. Questa per esempio è una legge che dicevo prima, una legge che dice che le persone che hanno da fare meno di un anno e mezzo devono andare a finirle la carcerazione nei proprio domicilio, ma anche chi ha meno di 3 anni, che ha un residuo pena di 3 anni, mentre quelli da un anno e mezzo ci dovrebbero andare automaticamente, quelli che hanno da fare 3 anni devono passare attraverso il giudizio del magistrato di sorveglianza, che verifica che sta tutto a posto, cioè una persona ha seguito l'iter carcerario tranquillamente, cioè non ci sono particolari ancora pendenze da sua ecca. Quindi, per cui il calcolo che hanno fatto alcuni esperti sono circa 23-25 mila persone che non dovrebbero stare nel carcere italiano, questo secondo le leggi italiane. Ma come ripetiamo per l'ennesima volta, cioè perché lo ripetete? Perché pare che qui non entra in testa la gente questa verità assoluta che si sa da sempre. Le leggi non bastano, le leggi non diventano immediatamente pratica. Poi ci vuole il rapporto di forza tra le classi, perché sappiamo, pure questa è la verità, che sanno pure i gattini per Roma, che la giustizia è di classe, che tutto il meccanismo del processo, la sanzione, la pena, risponde a un fatto di classe. E allora vediamoli più da vicino queste cose. Dunque, intanto vediamo i morti, che continuano a crescere chiaramente, no? Sono dall'inizio dell'anno sono 16 le persone morte in carcere, di cui 9 sono suicidi. In totale dal 2000 ad oggi, in questi 20 anni, sono 3.043 morti, una strage immensa, sembra una guerra, 3.043 morti. Considerate che non sono morti di vecchiaia, perché in carcere si sta fino a una certa età, poi si va via, no? Quindi sono morti di carcere, appunto, di cui 1.115 suicidi, una cifra spaventosa. Allora, non solo. 2 detenuti su 3 sono malati, le patologie sono le varie, ma insomma 2 su 3 sono malati, e considerate che sono entrati tutti sani, altrimenti non gli permettevano di entrare in carcere, no? Dunque 35.000 sono affetti da epatite C, che è una delle più gravi, ancora l'HIV è presente tra le persone in carcere, e poi 6.500 portatori di epatite B. Questo è un po' il dato. Vediamo i numeri. Dunque, i numeri, gli ingressi in carcere nell'anno appena trascorso sono stati 24.380. Cioè, in un anno sono entrati in carcere 24.380 persone, di più di un migliaio di meno dell'anno precedente. Quindi le entrate in carcere, le quantità di persone che entrano in carcere a partire dagli ultimi 10 anni, c'è un calo continuo, no, addirittura da 20 anni, all'inizio, prima del 2000, alla fine degli anni 90, entravano in carcere circa 60.000 persone, 50-60.000 persone l'anno. Gradualmente questo numero è calato e sono arrivati a 24.300. Da cosa dipende le persone che entrano in carcere? Non lo sanno tutti, semplicemente dai reati che si fanno e dalle persone che vengono arrestate, chiaro, no? Evidentemente, siccome i reati sono in forte calo, l'abbiamo detto, l'ho ripetuto, lo dicono tutti, anche se le paure dei reati aumentano, ma i reati calano, perché la gente evidentemente è condizionata, non ha una paura reale, ha una paura fittizia inculcata da qualche potente. Cioè, qui il problema è che non siamo persone autonome, che abbiamo i nostri sentimenti, l'odio, l'amore, la paura, l'affetto, spontaneamente, autonomamente, ma ci facciamo condizionare da chi? Dalla televisione, dai giornali, dal chiacchiericcio, dalla pressione mediatica. Oggi poi i social network sparano più di quel, il 99,99% dei social network dicono tutte clamorose fandonie, questo lo sanno quelli che ci stanno sui social network. Quindi, ebbene, tutto questo porta con sé che i reati calano, ma la gente ha più paura dei reati, vale a capire. Però questo è un dato, se i reati calano, calano pure le persone incarcerate. Allora, la domanda che credo tutti quanti e tutte quante vorrete fare a questo punto è: come mai i reati calano, le persone che entrano in carcere, cioè gli ingressi in carcere, diminuiscono continuamente, come mai le persone in carcere aumentano? Perché infatti hanno superato da qualche giorno la soglia dei 61.000, cioè una crescita. Se voi vedete i dati da 10 anni a questa, da 20 anni a questa parte, le entrate in carcere calano, le presenze in carcere aumentano. Come è possibile? Semplice. Se voi prendete un contenitore di acqua, per esempio, un grosso, un cilindro enorme che contiene molti litri d'acqua, c'è un tubo che porta acqua, che fa fluire acqua a questo cilindro, a questo contenitore, e un altro cilindro che la svuota, ne fa uscire. Se l'acqua che entra diminuisce, ovviamente dovrebbe diminuire il livello di acqua di questo contenitore, chiarissimo. Come mai invece non diminuisce, addirittura aumenta? Vuol dire che il tubo d'uscita è pressoché ostruito, elementare. Quindi mi portato al carcere questa piccola similitudine. Allora, vuol dire che i nuovi ingressi in carcere calano fortemente, però si blocca l'uscita, è più o meno ostruita. Come mai? Lo vediamo subito. Sono tre i motivi per cui non si esce sempre meno gente dal carcere. Uno, la maggior durata delle persone in custodia cautelare. Aumentano sempre di più le persone non ancora condannate in custodia cautelare, in attesa di giudizio. Famoso detenuto in attesa di giudizio, ci fu pure tantissimi anni fa un bel film con Alberto Sordi, ve lo ricorderete, no? È quello che partecipa alla sigla quando dice ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Alberto Sordi lo porta in carcere, e quello gli dice chiamami superiore, vabbè, per dire. Vedetelo quel bel film, scaricatelo, è un film vecchio ma sempre simpatico, detenuto in attesa di giudizio. Bene, i detenuti in attesa di giudizio stanno aumentando, hanno superato la soglia del 33%, nonostante le multe. Su questo terreno prendiamo forti multe, lo Stato italiano prende forti multe dalla Corte Europea, perché non dovrebbero starci per tutte le leggi, anche per la Costituzione nostra, che dice in carcere ci devono stare soltanto le persone condannate. Quelle non condannate sono da ritenersi ancora a tutti gli effetti innocenti, però gli innocenti stanno in carcere, con buona pace di tutti i chiacchieroni di questo paese. quindi perché c'è troppa gente in custodia cautelare. Secondo, perché le pene sono più lunghe. A parità di reato, oggi una condanna inflitta è più lunga di quella, per esempio, che si infliggeva 7, 8, 10, 15 anni fa. Perché? Ah, questo non lo sa manco il padre eterno, se ci fosse. Non lo sa nessuno, semplicemente perché il clima è diventato più stupido, e al clima stupido tutti quanti, in maniera un po' pecoronesca, chiedo scusa alle pecore perché facciamo questo, però non c'è altro modo di fare similitudini, in modo pecoronesco sì adeguano. C'è un clima, basta che un politico che ha consensi, non si capisce poi come fare il consenso, e dice buttiamo tutti in galera e buttiamo la chiave, tutti sì e quindi anche i giudici, magistrati, quelli che dovrebbero, i super partes, si adeguano. Quindi le pene sono più lunghe, non per legge, legge incentra, anzi le leggi hanno diminuito, però come ho detto prima le leggi non contano niente finché non c'è un rapporto di forza che le sostiene. Terzo punto, perché praticamente sono pressoché bloccate le misure alternative, non per il coronavirus che le ha definitivamente bloccate, ma per sempre quel clima forcaiolo. Quindi attualmente, dicevo all'inizio, il coronavirus sta bloccando i permessi, le semilibertà, no? Perché far uscire la gente significa aumentare il rischio di far entrare l'infezione in carcere. Ma prima non c'era il coronavirus, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, un anno fa non c'era il coronavirus, c'era la stupidità forcaiola che ha impedito queste cose qua. Allora, stante questi tre, no, troppa gente in custodia cautelare, aumento delle condanne a parità di reato, basso afflusso delle persone in misura alternativa, sono problemi politici, quindi non c'è da fare leggi o regolamenti, il problema è politico e quindi bisogna batterlo sul terreno politico. Come si cambia un indirizzo politico? Semplicemente facendo politica, cioè la manifestazione è un atto politico, lo sciopero, le battaglie di questo tipo, cioè portare la gente in piazza o manifestarla contro quello che fa il governo, questo è far politica. Dal basso si riescono a cambiare tante cose, e questo paese, come anche gli altri, ma questo paese ne ha di prove tantissime. Questo è il problema ed è un problema importante. Allora, dicevamo, tra tutte, chi raccoglie queste date e le diffonde, in parte per esempio molte l'associazione Antigone, ma anche altri, ci dicono, lavoro egregio, e i dati sono utili, importanti, se però le persone, la gente, quelli come noi che passeggiano per la strada, che stanno al lavoro, che stanno a fare la spesa, che stanno a casa, dovunque siano, si imparano a ragionare con la propria testa. Ecco, non che danno retta ai mormorii di bottega che circolano per questo paese un po' troppo bottegaio. Allora, dicono questi analisti che ragionano sui dati che nelle carceri i reati più gravi sono commessi dagli italiani, non dagli stranieri. Quindi forse prima gli italiani, che intendeva quel signore là, intendeva questo, prima gli italiani fanno i reati più gravi, è così. Allora, i dati sono che il 44,64% delle persone condannate ha una pena inferiore a un anno, quindi per reati poco gravi, pochissimo gravi, sono stranieri. Quindi la popolazione straniera in carcere non arriva al 30%, meno del 30%. Il 44-64, quindi quasi il 45% delle persone in carcere ha commesso un reato inferiore a un anno, quindi sono quelli che commettono reati più piccoli. Primo ragionamento. Secondo ragionamento, il 98,75%, quindi quasi la totalità, quasi il 99% delle persone condannate per la criminalità organizzata sono italiani, non stranieri. E ancora le persone condannate all'ergastolo, che sono tante, 1726, tantissime, questa è una mostruosità di questo paese. Pure in questo caso va fatto il ragionamento e facciamo prova. Prima, se i reati, in particolare gli omicidi, sono inferiori, sono calati, sono diminuiti di 5 volte, cioè se erano 500 sono 100, un bel calo negli ultimi 30 anni, quindi tanto importante, una prova di civiltà se vogliamo, ma di questo la giustizia non ne ha tenuto conto, perché gli ergastolani sono aumentati e sono il doppio di quanti erano 20 anni, 30 anni fa, 1726, quindi come si danno le pene così? Tipo le chiacchiere si fanno al bar quando si è ubriachi. Vabbè, comunque su 1726 ergastolani soltanto il 5% sono stranieri, quindi come vedete i reati più piccoli li fanno i stranieri, stanno in carcere per quelli, i reati più gravi li fanno gli italiani, ma questo è comprensibile. Che i reati, gli stranieri siano in carcere molti di più rispetto alla percentuale di esistenza in libertà è perché loro non hanno un avvocato in grado di pagarselo, e quindi hanno quello d'ufficio che non fanno altro che aiutarti ad andare in galera. Infatti questo 44% di persone che hanno meno di un anno da fare non dovrebbero stare in carcere, ma se sono stranieri ci stanno per quel motivo che dicevamo prima. Allora, 15:27 è l'ora di riprendere, mezz'oretta l'abbiamo dedicata a quello che succede oggi, agli aggiornamenti. Adesso riprendiamo il filo rosso della storia un po', più che della storia, di cercare di rispondere alle domande e agli interrogativi abbastanza sconvolgenti che, ragionando sul carcere, ci si pongono. Gli interrogativi da cui siamo partiti erano quelli: perché si punisce? Chi viene punito e che senso ha punire? Questi sono l'abbiamo visto un po' la storia della punizione da quando si ha memoria di quello che succedeva nelle antichità, nei remoti villaggi del Neolitico addirittura, si è stato ricostruito da molti suoi ricercatori. Bene, la punizione c'è sempre stata, solo che è stata sempre molto diversa. Soprattutto molto diversa da questa di oggi, che priva della libertà ed esclude dal consorzio sociale la persona che si dimostra, cioè viene separata. Il carcere è un luogo separato, impermeabile, che non ha rapporti con la società, no? Questa cosa non c'è mai stata, c'è solo adesso. Quindi quelli che dicono, anche qui la dose di cretinaggine è molto diffusa, ma il carcere c'è sempre stato, ovviamente dicono una di quelle stupidaggini clamorose. Ci sono state altre tipi, abbiamo detto quello che più diffuso nelle società antiche, ma fino anche al Medioevo, era la cosiddetta riparazione, cioè un reato, furto, rapina, oltraggio, anche la distruzione di un corpo, anche ferire, anche uccidere, era ritenuto un danno, ed è un danno ovviamente, per il gruppo, la comunità o la famiglia che la subisce questo affronto. Quindi doveva essere ripianato, ripagato. E le comunità di villaggio anticamente, poi quelle, le assemblee cittadine quando ci furono i comuni, poi via via le varie sistemi di governo che hanno avuto gli aggregati umani, decidevano quale dovesse essere il rimborso di questo danno fatto. Poteva andare da lavoro gratuito prestato a questa da chi aveva fatto questo danno a quelli danneggiati, oppure addirittura un pezzo di terra, oppure i cavalli che c'avevano, oppure le pecore, secondo quello che era il bene che diffuso tra quelle persone. Non c'è mai stata la privazione della libertà, anche perché non ci hanno mai avuto strutture le società antiche simili alle galere, no? Che tra l'altro sono molto costose, sono solo società opulenti come questa se lo possono permettere. E dunque addirittura nel, per esempio, il Medioevo, ma anche nella Roma antica, che qualche, sai, c'è il carcere mamertino per esempio, che sta qui vicino, no? Molti quando si vanno a Via dei Fori Imperiali lo incontrano. Che cos'era il carcere? Il carcere, però, ed è scritto molto bene nei trattati, diceva: non è recludere una persona non significa punirla, non è la punizione, è soltanto tenerla a disposizione in attesa del processo. Cioè, una persona che aveva fatto un reato molto grave, in attesa dei tempi del processo, che però allora erano molto più celeri, forse meno garantisti, però erano molto più celeri, però si teneva, per evitare che scappasse ovviamente, si teneva segregato in un posto solo per il tempo necessario al processo. Poi dopo il processo c'erano tante forme. Ecco, in epoca romana compare l'esilio, ma anche in epoca etrusca, ma anche in altre grandi civiltà dell'esilio, cioè fuori, anche nel periodo comunale, quando si svilupparono intorno al 1000 i comuni, no? Prima rottura, no? Della struttura feudale, poi man ha preso corpo, fuori dalla città ci stavano i cosiddetti fuori legge, fuori dalle, perché la legge arrivava solo alle mura della città. Vabbè, allora la risposta a queste domande, perché si punisce, chi punisce e chi viene punito, e qual è il motivo di questa punizione, tira fuori un argomento un po' spinoso che va maneggiato con attenzione, che però esiste, quello della guerra sociale, che non è la guerra militare fatta con cannoni, aerei, bombe, fucili, eccetera, no? Carri armati. La guerra sociale è il fatto che le classi, le diverse classi in scontro tra di loro su tutti i terreni, non trovano un momento di coesione, di diffusione, pur rimanendo ostili, ma di non belligeranza tra di loro. Questo non c'è né oggi né manco nel passato. Non è facile trovare, così ci dice la storia, i fatti, al di là delle teorie, ma, cioè, i fatti successi, è difficile trovare società divise in classi in cui queste classi, pur rimanendo diverse per interessi opposte e ostili quindi tra di loro, mantenevano una convivenza relativamente pacifica. Quindi c'è sempre ostilità tra classi, ostilità palese, e quindi si chiama guerra sociale. Detta in maniera molto semplicistica, dei ricchi contro i poveri. Ecco, poi non è così, le classi sono più di una, non c'è la classe dei poveri né la classe dei ricchi. La classe si dà rispetto alla proprietà dei mezzi di produzione, del capitale, cioè di somme di denaro talmente grosse in grado di investire e quindi modificare l'economia, quindi gli assetti sociali. E vabbè, comunque, per semplificazione si dice guerra dei ricchi contro i poveri, insomma, che chiariscono veramente due categorie che esistono, anche se non sono le sole. E quindi chi è che in questa guerra sociale viene definito il nemico sociale? Anche, e qui cominciamo a dare risposta al perché si punisce. Il nemico sociale è quello che dentro questa guerra sociale produce degli illegalismi, cioè si contrappone alla legge, nel contrapporsi alla legge può fare diciamo violazione alla legge, che producano due effetti diversi. In un caso il criminale può fare illegalismi che ostacolano lo sviluppo dell'economia e del capitalismo. In un altro caso può fare illegalismi che invece aumentano lo sviluppo della proprietà e favoriscono lo sviluppo economico e del capitalismo. Questi due legalismi vengono trattati completamente diversi, in maniera completamente diversa. Ovviamente, penso che non c'è bisogno di spiegarlo, la legge attuale punisce gli illegalismi che danneggiano l'economia e il capitalismo, non quello che la favoriscono. E anche qui sono i dati che ci confortano in questa affermazione. Nelle carceri italiane ci sono non più di 500 su 61.000 persone condannate per reati cosiddetti dei colletti bianchi, falso in bilancio, cioè i reati che fanno gli amministratori delegati, gli imprenditori, questa gente qui, non arrivano a 500. Tutti gli altri 60.500, perché per arrivare a 61.000 hanno fatto invece gli altri reati, quelli che danneggiano l'economia e il capitalismo. I primi hanno fatto lo stesso dei reati, cioè delle illegalità, che però non favoriscono l'economia e la proprietà, e che casomai la loro. Però, diciamo, se un imprenditore aumenta i suoi profitti, lui ha fatto i soldi, ma tutti quelli che, per esempio, i commentatori di economia vi dicono l'economia cresce, in questo paese cresce, quindi è un bene e vive a tutti. Cioè, se uno fa degli imbrogli, sempre un'assurdità, no? Se una persona fa degli imbrogli colossali, tanto in Italia ci abbiamo avuto pure capire il governo, fa degli imbrogli colossali, viola la legge, fa casino, accordi con le mafie, tutti gli impicci possibili e immaginabili, ed aumenta il suo capitale in maniera sproporzionata al punto che può fare investire questi capitali, fare infrastrutture, aprire nuove fabbriche, quindi aumentare i posti di lavoro, fare strade, case, eccetera. Tutto questo fa crescere l'economia e si applaude, e viva e viva a questo signore che ha fatto i soldi, violato la legge, però ha fatto i soldi, ha fatto crescere l'economia, ha fatto crescere il capitalismo, e viva e viva, siamo tutti meglio. Poi non è vero che siamo tutti meglio, ma i primi fatti è vero che vuol dire quindi che questa economia è un po' malata. Ora qui noi non vogliamo, non è una trasmissione economista, non vi spieghiamo perché l'economia è malata, ma sicuramente non ci vuole molto a capirlo. Sta di fatto che punisce quelli che danneggiano l'economia capitalista e quelli che invece quelli che la favoriscono, per esempio le banche, per esempio, no? Nella crisi del 2007-2008, lo ricordate, ne hanno parlato, ci sono stati spettacoli, hanno prodotto anche i film delle grosse società, la Lehman Brothers, no? Queste miliardarie, ma plurimiliardarie, che quelli che facevano i giochi in borsa, che dicono questo imprenditore va bene, investite qui, non investite là, cioè manovrano, quelli che manovravano molto, improvvisamente si è visto che facevano degli imbrogli talmente grossi, sono andati fuori, che è crollata, e c'è stata una delle più grosse crisi. Quella che ha portato tantissimi disoccupati, chiusure di fabbriche, morti di fame, ma quei morti non si contano, non gli frega niente a nessuno. Questa è la cultura di questo periodo. Di quei morti lì non se ne parla, c'è ancora gente in America che dorme in macchina perché ha perso la casa, perché se smetti di pagare il mutuo, in quanto hanno perso il lavoro, la banca si riprende la casa, anche se ne hai pagati due terzi, quattro quinti, non gli frega niente, si riprende la casa e tu rimani senza casa, senza soldi, vai e dormi in macchina. Questi sono tanti casi. Bene, male, vabbè, comunque così è. E diciamo, questo, dico, anche i numeri in questo caso ci fanno vedere che c'è un'economia che risponde non solo alla non è vero che l'economia cresce se cresce la legalità, non è assolutamente vero, perché anzi, se c'è della illegalità ma fatta ad uso e consumo di far crescere i profitti dei capitalisti, quella economia cresce e non è basata sulla legalità, è basata al contrario sulla illegalità, sugli illegalismi, però ovviamente quelli vengono fatti i cavalieri del lavoro, presidenti della Repubblica, insomma questo è il mondo. Quindi la giustizia non solo è di classe, fa abbastanza schifo, perché è questa. Dunque abbiamo visto prima che ci stanno quelli che devono fare un anno di carcere in galera e stanno ancora in galera, con rischio di pigliarsi anche il coronavirus. Tutto questo uno dirà, vabbè, quando è cominciato? Perché così scopriamo un'altra grande cosa, sempre ripercorrendo la storia. È cominciato non tantissimi anni fa, appunto, tantissimi secoli fa, nel 17-18 secolo, cioè nel 1700, fine 600, alcuni paesi, ma nel 700 e nell'800 in altri, negli ultimi, quindi come vedete nemmeno 300 anni di storia a questo tipo di carcere, questo tipo di giustizia, questo tipo di punizione, quindi è recente. Ci fu quello che alcuni come Foucault e altri chiamano il grande internamento. Che cosa è successo in quei due secoli? Che cosa era successo? Non che erano moltiplicati tutti affari reali, non è vero. Lo racconta bene, per esempio, I Miserabili di Vittorio Hugo. Vittorio Hugo era un gran socialista, una persona molto in gamba e intelligente. I Miserabili. Dunque, c'è stato che alcuni paesi, la Gran Bretagna, l'Olanda, la Germania e successivamente la Francia, poi via via tutti gli altri, hanno sviluppato quello che fu l'industrializzazione, infatti viene chiamata la rivoluzione industriale. Cioè questi paesi si dotano, quella che era la produzione che c'è sempre stata, però fatta con botteghe, piccoli artigiani oppure botteghe artigiane, altri modi, vengono fatti le fabbriche, che hanno una struttura lavorativa completamente diversa. Adesso non vi facciamo male, capite, no? Il lavoro viene scomposto, il lavoro fatto a catena, non c'è più il lavoratore, l'operaio, l'artigiano che fa l'opera completa, ma ognuno fa un pezzetto di lavoro, quindi vengono alienati, sfruttati, e tutte queste persone qua, quindi bisognava creare gente che andasse a lavorare in queste fabbriche, che non erano molto amate dalla gente che ci andava dentro, quindi bisognava produrre delle persone, far diventare delle persone a reddito zero, in modo che fossero costretti a prendersi il lavoro in fabbrica, e quindi iniziò il processo di espropriazione dei contadini. I contadini venivano espropriati e quindi, non avendo più la terra per mangiare, dovevano andare a lavorare in fabbrica. Per costringere la gente a mandare a mangiare in fabbrica, a andare a lavorare in fabbrica, siccome all'inizio ci andavano, ci stavano una settimana, 15 giorni, poi scappavano, e che andavano a fare i mendicanti, i senza casa, i vagabondi, i furtarelli, i senza fissa dimora, tutte queste persone furono prese in blocco e mandate in carcere in questi paesi, prima la Gran Bretagna, poi l'Olanda, poi la Germania, poi la Francia e poi via via tutti gli altri. Perché in Italia, pensate un po', qual è stata secondo voi la prima regione che fa un hospital, perché si chiamarono workhouse oppure hospital, poi l'ospedale diventa un'altra cosa, però sempre per correggere i difetti. Perché dicevano, queste persone da soli spontaneamente non ci vanno in fabbrica, bisogna educarli a capire che il loro futuro è solo là, o in fabbrica o muori di fame. E quindi le carceri, workhouse, chiamate come volete, servivano a mandarli, ad addestrarli ad andare poi in fabbrica. E quindi il grande interramento fu fatto per questo. I mendicanti, che non sono mai stati dalla nascita dell'Homo sapiens arrestati, perché senso ha arrestare il mendicante? A chi fa male? Niente, dorme per strada, chiede la carità, chi ha vodagliata, chi no, se non c'è da mangiare muore, se c'è da mangiare campa, non è un disturbo di nessuno. Bene, mendicanti, vagabondi, senza fissa dimora, perché devono essere arrestati? C'è solo un motivo, no? Perché quelle persone devo addestrarle e andare a fare gli schiavi in fabbrica. Il motivo è questo, se no li lasciamo lì, come tutti i regimi precedenti l'hanno lasciati lì, perché non danneggiavano nessuno, no? Che danneggia un mendicante che sta lì a chiedere la carità, ovviamente. E quindi ci fu il grande internamento. Allora, come si vede chiaramente, la nascita dell'industrializzazione e la nascita del carcere hanno gli stessi natali e anche la stessa madre. Mi dispiace, non vorrei offendere le madri, ma intesa che li partorisce, ed è il capitalismo, appunto, il nascente capitalismo che fa nascere queste due strutture, la fabbrica e il carcere, perché l'uno serve all'altro, altrimenti non sarebbe nato un carcere così. Ma che senso ha spendere i soldi per tenere la gente chiusi, con quindi costo delle strutture, del personale di custodia, di dargli da mangiare se non morrono, anche se male, il bughiacca, come si dice, sa, qualunque cosa. Perché tenerle se non ci, cioè, non tiri, se la società non ci tira fuori un profitto? Successivamente ci tira fuori il profitto, altrimenti non le terrebbe. Cioè, si tratta di addestrare le persone a diventare lavoratori subalterni, pacifici e obbedienti. Questa è la funzione del carcere, serve a questo il grande internamento. Non a caso è nato in quei paesi dove prima è nata l'industrializzazione, la Gran Bretagna, poi l'Olanda e la Germania e la Francia, e poi buon ultimo l'Italia. Diciamo, qual è stato il primo paese che la prima regione l'ha fatto? Non a caso la Toscana, perché aveva il regime più avanzato da tutti i punti di vista, anche se ha fatto grandi opere d'arte stupende nel Rinascimento. Poi ci fu una rottura del Rinascimento col periodo successivo, perché nel frammezzo c'è stata la Controriforma, cioè quando hanno cominciato a bruciare sul rogo. Non solo Giordano Bruno nel 1600, che sta ancora lì a Campo dei Fiori, ma hanno fatto pentire Galileo Galilei, hanno detto che non è vero che la Terra gira intorno al Sole, ma è la Terra al centro, perché così ha detto il Padre Eterno. Insomma, hanno rincoglionito un po' tutti in Italia per paura di questa, che era, dove era più forte, in Italia e in Spagna, l'Inquisizione, la Controriforma. E allora la gente ha interiorizzato che cosa? Il compromesso, la bugia, la falsità, il contorcimento, tutte queste cose che permettevano di salvare la vita, poi sono rimaste purtroppo come cultura deviante. Allora, 15:48-49 adesso. Allora, tutto questo processo distruttivo di persone, donne, uomini, bambini, carne e sangue, cioè, è chiaro che ha prodotto grandissimi conflitti, è inevitabile, per quanto siano già, non è che la gente poteva accettare questo massacro così, no, senza far niente, e quindi il conflitto ha sconvolto questi paesi, che però, come sappiamo tutti, anche se cercano di farcelo dimenticare, il conflitto in realtà è una grossa spinta che porta i paesi, le società dove avviene più intenso il conflitto, più la società fa dei passi avanti, perché il conflitto non si può soltanto reprimere, poi si reprime, tutti questi l'hanno represso, continuano a reprimerlo, però un tot di come dire, un qualcosa va oltre la repressione, si afferma, rimane, fa strada, produce, ecco. Questo è il conflitto, molto complesso, i conflitti poi sono tanti, anche diversi. Comunque questo passaggio, l'industrializzazione, ha provocato tanti di quei conflitti spaventosi. Ha prodotto anche però cose egregie, per esempio delle associazioni, le prime associazioni degli operai, non a caso sono dell'Ottocento, no? All'interno di questi paesi dove avveniva l'industrializzazione e questo massacro delle persone, è chiaro che si sono associati e via via, e questi hanno portato quello che è oggi, diciamo, quel tot, poco però quel tot di civiltà che abbiamo, che so, fino a qualche anno fa. Adesso c'è stato un rigurgito un po' demenziale in questi ultimi 10-15 anni, però fino a 20 anni fa, per esempio, non era facile licenziare, ci voleva la giusta causa, c'era il famoso articolo 1, insomma, ci voleva il Tribunale del Lavoro, davano quasi sempre e giustamente ragione alla persona, al lavoratore, alla lavoratrice, insomma, alcune garanzie sulle norme igieniche del posto di lavoro, sugli infortuni, insomma, alcuni passi avanti si sono fatti. Non a caso i morti prima erano 12 al giorno sul lavoro, 12 al giorno, non parlo del Medioevo, parlo appunto dell'industrializzazione. I 12 morti al giorno si contano nei primi anni del Novecento in tutta Europa, 12 morti al giorno, ma sono 3, sempre tantissimi, però insomma, perché ovviamente questo è un crimine di cui nessuno è mai colpevole, perché appunto, perché questo crimine si lascia così? Perché se uno muore in una rapina se ne parla per 15 giorni di seguito, quelli morti sul lavoro 3 secondi, qualche radio la dice, ne parla 3 secondi, oppure per niente? Perché quelli sono gli illegalismi che fanno crescere il profitto, dicevo prima, no? Quindi perché devono essere perseguitati? Fanno bene all'economia, i morti del lavoro fanno crescere l'economia, e andiamo. Se dovessero mettere tutte le norme antinfortunistiche, i profitti calerebbero, quindi l'economia scende, quindi quel PIL troppo scenderebbe. È tutto un marchingegno diabolico, infernale, di cui purtroppo noi siamo i conniventi, perché noi non è che ci ribelliamo, non sembra, almeno a livello attuale non mi pare, poi speriamo che domani mattina avvenga, però finora non c'è, quindi siamo conniventi. Gli atti restano zero, le parole, sì, in Italia ci stanno, l'italiano come in altre lingue anche hanno belle parole che rappresentano esattamente lo status della persona. Noi siamo conniventi di questa barbarie, punto a capo, e vediamo di scriverla un'altra pagina di storia. Allora, diciamo, tutti questi conflitti che succedono non si possono lasciare così. Succede che c'è lo Stato che guidava già tutto quel processo, no? Levare la terra ai contadini, mettere sulle grandi fabbriche, fare le infrastrutture, non le ferrovie che collega fabbrica a fabbrica, oppure fabbrica alla miniera, cioè tutte queste cose qui. Lo Stato dirige tutto questo marchingegno. E quindi, però, quando avvengono i conflitti, avvengono subito, dice: fermi tutti, io mi impossesso anche dei conflitti. Lo Stato che dirige tutto il marchingegno, ora che la modernità sia basata sulla proprietà privata, è vero, cioè i soldi in tasca li mettono i privati, alcune scelte le fanno loro, però chi si sobbarca di tutta l'onere di questa industrializzazione, della carcerazione, del mantenimento dell'ordine, è lo Stato, con i soldi pubblici ovviamente, mantiene tutta questa struttura, e quindi si deve anche impossessare dei conflitti. Cioè i conflitti, mentre anche questi nel tempo antico venivano regolati dai due contendenti, no? Si mettevano d'accordo, c'era l'assemblea di villaggio o di città che invece con là ci sta quel bel libro, ad esempio, non un bel libro, perché dentro c'è c'è quella opera di Shakespeare, Il mercante di Venezia, tra l'altro basato su un racconto vero che circolava, quindi c'erano dei libricini molto piccoli che circolavano in Italia, Shakespeare l'ha presi e da questi ci ha fatto questi, come tanti altri, no? Ci ha fatto i suoi bellissime opere teatrali. Bene, Il mercante di Venezia, se lo leggete, vi racconta proprio questo fatto. Nella Venezia, la grande Venezia, che allora era una potenza mondiale, avvenne questo fatto di un usuraio e uno che non pagava il debito, e vedete come va a fine. Insomma, vabbè, per dire come funziona, no? Il meccanismo. Dunque, lo Stato si è impossessato di questi diritti e dice: il conflitto lo prendo io in mano, decido chi c'ha ragione e chi c'ha torto in base a delle leggi che facciamo noi qui, la parte centrale del potere, e poi io decido non solo chi c'ha ragione e chi c'ha torto, ma quello non mi interessa. Mi interessa, cioè, se tu, una persona, Pinco Pallino, mena a Pinco Paolo, due cittadini fanno potere di loro, a me non mi interessa sanare la situazione tra Pinco Pallino e Pinco Paolo, a me mi interessa vedere che questi due hanno disturbato l'ordine produttivo che io Stato devo salvaguardare. Quindi l'oltraggio l'avete fatto a me Stato, garanzia dell'ordine produttivo. Chiaro questo discorso? Quindi non, la vittima scompare, va sul fondo, poi ci fanno l'associazione delle vittime, quelle per dargli il regalino, ma non compaiono nel conflitto. Nel conflitto compare chi fa la trasgressione della legge e lo Stato, e lo Stato a nome di tutta la società dice: tu hai violato l'ordine, qui dobbiamo mantenere l'ordine produttivo. Chi lo trasgredisce va punito, io lo punisco, io Stato, e decido quale pena. Non risarcire la vittima, di quello non mi frega niente, perché mi interessa me la vittima, dice lo Stato. Non si è mai interessata, la vittima non partecipa nemmeno al processo. Poi i giornalisti cercano di farla rientrare, ma comunque non c'è nell'ordinamento giuridico di tutti i paesi, Italia compresa, Italia in primis, non entra la vittima nel processo. Entra lo Stato e il trasgressore, punto. Con tutti gli anni. Quindi lei dice: io decido, tu hai fatto una rapina, un furto, non la dovevi fare, io ho dato il regolamento, l'ordine che non devi farla, se tu la fai hai fatto un oltraggio a me e io ti punisco secondo i miei criteri, non della vittima. E allora si impossessa dei conflitti e anche dei fatti. Ora, noi per conflitti intendiamo tutto quello che succede, anche una rapina è un conflitto, un furto è un conflitto tra due soggetti, uno che c'ha fame, per esempio, e quello che vende i panini, quello ruba il panino a quello, è una storia che si vorrebbe risolvere tra loro due. No, lo Stato dice: la proprietà privata va salvaguardata, io Stato la salvaguardio, se tu rubi fai un oltraggio a me e io ti punisco. Questo fatto cambia, questa è la novità di questi tempi, cioè da cui nasce la galera, il diritto moderno, che compare questa figura che prima faceva altre cose, lo Stato, che assume su di sé anche il concetto di punizione, sanzione, galera. Quindi io ti do come tale ha espropriato tutti quanti. Quindi, mentre all'inizio abbiamo scoperto il meccanismo, il dogma della esclusione, cioè la persona che trasgredisce una legge viene espulsa col carcere dal consorzio umano. Infatti il regolamento del 31 diceva: esclusi dal consorzio umano i detenuti, i delinquenti, esclusi dal consorzio umano. Poi l'hanno cambiata, beh, la Costituzione ha cercato di dire cose diverse, ma questa società c'entra assai poco con la Costituzione, per come l'hanno pensata i costituenti e le costituenti. È più vicina a quello del 31. Perché sono esclusi? Perché in carcere non c'entra la società, no? Poi qualcuno ce lo fanno entrare, però in realtà non c'entra nella realtà, no? Per quanto è rimasta il carcere, è rimasta una struttura esclusa dalla società, impermeabile, così come era nel regime fascista e nei regimi precedenti. Quindi non sono riusciti a fare questo cambiamento, che pure i costituenti e le costituenti che avevano provato il carcere volevano fare, hanno detto, hanno fatto un dibattito molto interessante, andatevelo a leggere, questo non sta sulla Costituzione, sta sui lavoratori i lavori preparatori della Costituzione, si può scaricare da internet, ve la leggete, la studiate, male non fa, insomma, però comunque tanto non lo farà nessuno, non l'ha fatto mai nessuno, perché lo dovrebbero fare adesso? Il problema è questo. Allora da lì la